Entra, siamo qua. E avanti. Antonio. Dimmi tutto. Dai, è importante, non entri. Buonasera. Buonasera a lei. Ho dato due colpi di portante, forse c'è un volume appena abbassato, capito? Lo so. Sei già a nanna, già a letto? A letto. Sono ubbigliato un'incazzatura oggi, via. Ma me ne fatto uno specchietto di una macchina, meno male che era una della TP, mi ha messo la matricola e tutto, adesso domani faccio il risarcimento danni. Ah sì? Sì, per fortuna sono sceso giù. Sono sceso, mi sono fatto dare il fuoco, adesso domani gli faccio il corso di risarcimento danni. Però devo cambiare lo specchietto perché come faccio se no? Se non sono attento, posso pensare neanche ad uno, quindi lo cambio subito. Lascio il pezzo vecchio, faccio le foto e poi mi risarciscono i danni. Vabbè, certo. Poi come ti mi danno il dito, come ho letto il bigliettino. Mi sono comparato a fuoco, ci sono sceso, e incazzato niente. Vabbè. Tanto una volta preso non è che cosa cambia. Lo sai cos'è, che sono troppo nervoso in questo periodo. Già stamattina stavo dando bestemmia ad Albano A che per l'ennesima volta mi ha mandato la raccomandata, mi ha mandato. Cioè io quando arrivo a raccomandata mi piglio male, capito? Gli stiamo dando tutte le bestemmie di questo mondo, speriamo che li scendano. E per cosa questa raccomandata? Ma paga una bolletta di 50 euro. Bolletta? Vabbè. Ma uno quando si aspetta la raccomandata pensa che sia qualche cosa strana. Meno male che sono leggeri i codici, quindi perso poco un po'. Ma mi viene l'ansia, mi viene perché... Penso che sia qualche contravvenzione, capito? Ah, così è. Allora un casotto. Prova a indovinare una cosa. Vabbè che io già sto attento, ho sempre il coso acceso. E sono... cioè, mi vengono le paranoie. C'ho sempre quel navigatore acceso dove le vai autovelos. Ho sempre paura di questa cosa qua, ovvio. Sono fissato, ho le fobie, no? Ma quando ho preso la patente sono così, sono. Vabbè. Diciamo la verità che oggi bisogna andare un po' attenti, però... Però, insomma, dai, già c'è la via di fuga. Oh, che poi ho scoperto una cosa. Penso che sia così, me. Se tu malestrimi i rimedi, vai di là, paghi non ti ricordi chi è, paghi le contravvenzioni e basta. alla fin fine i punti non te ne possono togliere, mia, lo sai. Però devi avvedire a pappagare, se devi pappagare le cose, le contravvenzioni, mia, lo sai. Infatti, infatti. Ti ha messo che fumare informato bene, già. Boh, quello non lo so, quello non lo so, però dai, se c'è qualcosa da svincolare, si svincola. Non lo so. Canta, faccio la fobia, però sto sempre attento, sto. Prima o poi, non so, non penso che ci riusciranno perché io sto molto attento. Però prima o poi mi pizzicheranno perché ho il vizio di Gurri Umberto. Soprattutto quando non ho il bambino, pure come un macco. Una volta ritornando da Olbia ci ho messo 39 minuti. C'avevo l'affare acceso. Sì? Sì. Era anche di notte, era in corsia di sorpasso. A 170. 170? Sì, già. E non andare di più, questo appunto. Già va bene, che andando a chiudere la macchina mia. Ehi, mi se poi ti faccio il video un giorno. No, no. Allora, io ti consiglio una cosa. Poi fai quello che vuoi, Antonio. Sei diventato papà, quindi sappi che hai una creatura da mandare avanti. Sì, lo so. Pitti, quello cuore. Cosa vuoi dire? Ciao. Saluta. Che quella cosa. Ciao Gabriele, ciao. Pure io. Lui vuole parlare, ma no. Ancora non spicca molto bene, mi capisco. Aspetta un attimo, Anto. Via. Ok. Cento. Bene, ciao Antu, dai, io vado a nanna. Ciao. C'ho sonno, dai, adesso mi preparo due cose e poi vado a nanna. Dai, ci sentiamo domani, ok? Ciao, ci stiamo male, ciao. Buonanotte. Ciao Antu, ciao, buonanotte.